Buongiorno. Eccoci. Ciao Alessandro. Nostra un po' di tutti, eh? Vabbè, adesso non esageriamo. Tutti, no. Tutti, no. Circoscriviamo un po' il campo. Allora, buongiorno. Oggi parliamo in qualche maniera di famiglie allargate, delle tutele per i figli che secondo la legge nascono fuori dal matrimonio, anche se poi sono pienamente riconosciuti dal padre. Anche se il caso che affrontiamo oggi, che ha portato ad un'importante sentenza della Cassazione, non riguarda esattamente una famiglia allargata. Andiamo con ordine, facciamo un po' di chiarezza. L'oggetto del contendere è l'assegno per il nucleo familiare, che è uno dei sostegni previsti dalla legge per i lavoratori e i pensionati. La sua entità dipende dalla tipologia del nucleo familiare e dal reddito. Cosa succede nel caso di figli nati fuori dalle nozze in una convivenza, mentre il genitore richiedente risulta ancora formalmente coniugato con una persona diversa, si può comunque ottenere l'assegno? Stamattina ne parliamo con la dottoressa Maria Rosa Gheido, consulente in materia previdenziale, soprattutto consulente del lavoro, esperta per il Sole 24 Ore. Dottoressa Gheido, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, si è trovata in questa situazione una coppia convivente dal 1992, questa coppia ha avuto 3 figli, sono ancora minorenni, sono tutti legalmente riconosciuti, conviventi con loro a carico di questa famiglia. Il padre, tuttavia, risulta ancora sposato con un'altra persona da cui non è separato legalmente per mancanza di disponibilità economica. Allora, ovviamente, questo papà ha fatto richiesta per l'assegno familiare all'INPS. L'INPS ha risposto però di no. Perché, dottoressa Gheido? L'INPS ha negato l'autorizzazione valendosi di una prassi dell'istituto che interpreta la norma nel senso che il richiedente può anche non essere ancora parte di un altro nucleo, ma l'assegno verrebbe pagato soltanto a quel genitore che non ha un'altra famiglia, un altro nucleo familiare nel quale non sono inseriti questi ragazzi. Quindi ha applicato questa regola e la Corte di Cassazione molto saggiamente ha risposto che la normativa dell'assegno richiede semplicemente il riconoscimento del figlio naturale, non chiede che vi sia l'inserimento in una famiglia legittima. Quindi in sostanza la Cassazione ha accolto, credo, un ricorso che questo papà ha fatto contro questa decisione dell'INPS. Che tipo di precedente rappresenta questa pronuncia della Cassazione, dottoressa Gheido? Anche perché mi sembra una battaglia interessante dell'INPS, dato il numero crescente di famiglie composte in questo modo. L'INPS vuole evitare che si apra la strada al riconoscimento dell'assegno a tutte le famiglie di fatto? Ma credo che in qualche modo la scelta operativa fosse una scelta un po' di comodo, perché a fronte di documenti ufficiali che formalizzano il nucleo familiare ancora legalmente esistente, perché non c'è stata la separazione formale e non c'è stato l'eventuale divorzio, l'INPS privilegia quell'aspetto meramente formale. Questa sentenza secondo me è molto importante proprio perché sempre più si riscontrano delle coppie di fatto dove uno o anche entrambi i conviventi non hanno ancora concretizzato la divisione rispetto al coniuge e rispetto quindi al legame preesistente. Quindi una situazione direi abbastanza comune ed è per questo che è molto importante il principio che la Corte ha stabilito. Nel momento in cui c'è il riconoscimento da parte di entrambi i conviventi, nel momento in cui c'è la convivenza con il minore e addirittura come in questo caso ovviamente i genitori provvedono ai bisogni del minore, ecco, scatta comunque il diritto all'assegno anche se uno o entrambi hanno ancora un legame legale con la precedente famiglia. Non è invece richiesta per l'ottenimento ai fini dell'ottenimento dell'assegno la condizione di figlio a carico. Che differenza c'è, dottoressa Gheido? Beh, un'importante differenza anche questa, perché con la normativa precedente l'ANF era richiesta la condizione di carico e la condizione di carico è quella fiscale, pertanto basta un reddito molto basso, i 2.500 adesso, tanto per semplificare, euro, che possono essere goduti dal minore magari per effetto, che ne so, di un immobile che è stato intestato a loro. Quindi la condizione di soggetto a carico si perde con una certa facilità. La nuova normativa dell'ANF per i figli invece chiede esclusivamente che siano minori, perché con i 18 anni il diritto si perde. verde, salvo che purtroppo il figlio sia inabile, nel qual caso non ci sono nemmeno limiti di età, non solo, ma l'ANF, quando in famiglia è presente un soggetto inabile, aumenta anche come importo. Dottoressa Gheido, l'ANF sta per che cosa? Al nucleo familiare. Benissimo. È una sigla che utilizzate voi addetti ai lavori, certo, conoscono molto bene, abbiamo precisata per i nostri ascoltatori. Esatto. Quindi, riassumendo, l'assegno per il nucleo familiare si può ottenere anche quando nel nucleo sono presenti figli nati, come si dice in questo caso, more uxorio, indipendentemente dal fatto che il genitore risulti sposato ad una persona esterna al nucleo stesso, è condizione necessaria che i figli siano conviventi del genitore richiedente, non è necessario che risultino a suo carico. Un passo indietro, prima di salutarci dottoressa Gheido, rispieghiamo che cos'è l'assegno per il nucleo familiare, chi lo paga al lavoratore e come se ne può fare richiesta? Sì, certo. Brevemente, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito che è stata pensata espressamente per i lavoratori dipendenti, ma non solo, perché anche i collaboratori coordinati e continuativi ne hanno diritto, e per i pensionati. Normalmente la domanda è presentata al datore di lavoro, occorre però l'autorizzazione dell'INPS ogni qualvolta vi sono situazioni tra virgolette anomale, ovvero quando come non è questa. Una famiglia costituita sì, esatto, come... dal matrimonio, eccetera. C'è una condizione reddituale, perché proprio per la sua natura è richiesto che il reddito del nucleo familiare, che potrebbe anche essere pari a zero, sia però composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o assimilati. Benissimo. I passi necessari per presentare la domanda e ottenere il pagamento dell'assegno sono naturalmente fare domanda o al proprio datore di lavoro o all'INPS. Stamattina non riusciamo ad esaminare anche questi punti, però abbiamo detto la cosa importante è questa pronuncia appunto della Corte di Cassazione rispetto a questo ricorso che un papà aveva fatto contro una decisione dell'INPS di non erogare a questo particolare nucleo familiare appunto l'assegno familiare. Grazie dottoressa Gheido, le auguro grazie buona a giornata. Voi, a presto. Alessandro. Eccoci qui. Oggi ritorniamo un po' sulle borse perché sì. Abbiamo visto che questo movimento dello yuan che si è voluto sganciare dal dollaro ha provocato insomma dei bei movimenti per gli investitori appassionati di valute, di mercati azionari, di obbligazioni, insomma oggi monitoriamo un po' quello che è accaduto negli ultimi giorni. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo di prostituzione nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Questo perché c'è un emendamento che credo sia un emendamento diventato bipartisan, ma ora ce lo spiegherà uno dei firmatari, per di fatto legalizzare e tassare la prostituzione, legalizzare, rendere legale la prostituzione in alcune condizioni ben specificate e poi procedere alla tassazione, cioè considerarla un lavoro legale come tutti e quindi tassato e tassabile. Il senatore Lucio Malan, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Del Popolo della Libertà. Allora, intanto prima di imbarcarsi per questa strada, ha pensato a quanti ci hanno provato inutilmente prima di lei? Però siamo in una situazione in cui si stanno facendo dei tagli molto, molto pesanti, necessari, perché sappiamo bene quanto sia necessario la salvaguardia dei conti pubblici per evitare di doverne farli molto peggiori per un eventuale aumento dei tassi di interesse. Allora, in una situazione di questo genere, dire sì a questa proposta, che naturalmente può essere cambiata, modificata e così via, vorrebbe dire di sì a 1 miliardo, probabilmente di più, che potrebbe consentire di fare tagli inferiori in certi settori, oppure di migliorare ancora i saldi, oppure di poter investire. Cioè, un miliardo di euro? Un miliardo di euro, le dice? Guardi, in Germania, che è un paragone presentabile, che credo che sia a proposito per paragonare la Germania all'Italia, in Germania il giro della prostituzione legale è superiore ai 14 miliardi di euro. Mm. Supponiamo che in Italia sia la metà, un po' perché siamo meno numerosi, un po' perché c'è una certa propensione al nero in tutti i campi, verosimilmente ci sarebbe anche in questo. Anche lì. Si potrebbe pensare alla metà, 7 miliardi, di questi 7 miliardi è ragionevole pensare che un miliardo, 7 miliardi di fatturato, diciamo così. Sì, certo, un miliardo di recupero. Ma... Allora, no, lei tra l'altro ha proposto la legalizzazione a queste condizioni, e che ovviamente che chi lo faccia sia totalmente libero di farlo, che sia maggiorenne, che si sottoponga a controlli sanitari periodici, che abbia l'obbligo di protezione profilattica nei rapporti, che sia fatto solo in locali non aperti al pubblico e lontano da scuole o locali di culto, e poi insomma queste le condizioni. Cos'è? Le case chiuse, possiamo dire così? Il ritorno? Può dare il nome che vuole. Io, mentre lei mi ricordava questi criteri che io ho proposto, mi veniva in mente che sono tutti criteri che attualmente non vengono rispettati, perché la prostituzione in Italia c'è naturalmente, certo. Sappiamo benissimo che c'è. Fosse che non c'è, non mi sognerei neppure di proporne l'introduzione, perché se l'Italia fosse un paese virtuoso che a differenza di tutti gli altri non fa vivere questo settore, perché è chiaro che questo settore c'è perché c'è la domanda, allora non mi sognerei mai di proporre di introdurlo. Ma visto che oggi c'è e non rispetta nessuno di questi criteri, e cioè purtroppo ci sono delle minorenni, c'è sfruttamento, viene fatto dappertutto, viene fatto all'aperto, eccetera eccetera, almeno dice che sia legalizzato, prenderne atto e non fare finta che non esista. Ecco, senatore, secondo lei molto comodo, ma esiste. Quanto c'è di tasso di ipocrisia nel non voler prendere atto di questa situazione, cioè che la prostituzione è un mercato fiorente, purtroppo, e legato anche molto allo sfruttamento, appunto, alla violenza, anche alle condizioni sanitarie non certo positive. Ma io non so quanto c'è di ipocrisia. Penso che ci sia sicuramente anche della buona fede di dire ma non possiamo ammettere che esista, però esiste, credo che ci sia, forse io non lo chiamo ipocrisia, che probabilmente, anzi sicuramente c'è, diciamo che c'è anche un po' di mancanza di realismo, che bisogna prendere atto che esiste. È chiaro che nel mondo ideale ci sarebbero tutte coppie felici e fedeli, ed è anche il mio mondo ideale, però questo mondo ideale non c'è. Tra l'altro io voglio salutare, e ci stanno ascoltando, la senatrice Emanuela Baio Dossi, buongiorno, del Partito Democratico. Buongiorno, saluto anche il collega Malan e buongiorno a tutti. E ci sta ascoltando anche il sindaco di Albenga, Savona, Rosalia Guarnieri, della Lega, è giusto, sindaco? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, senatrice Baio Dossi, lei immagino sia molto contraria, anzi è contraria, l'abbiamo chiamata per questo. Perché è contraria a questa proposta di legalizzare un fenomeno che c'è? Questo è sotto gli occhi di tutti. Guardi, il fenomeno c'è e ne siamo ben consapevoli anche noi che siamo contrari alla legalizzazione della prostituzione. C'è un dato di fatto e mi rivolgo a tutti gli ascoltatori, ma anche al collega Malan. Ma come mai noi non tassiamo anche i ladri? Ce ne sono più tanti in Italia, lo dico con questo tono ironico per far capire che senso ha. Io inorridisco di fronte al fatto che si vogliano tassare, quindi lo Stato riconosce che la prostituzione è una professione, la prostituzione che è l'offesa della donna e del corpo femminile. Allora, lo Stato non può e non deve, guai se lo facesse, riconoscere che questa è una professione e chiedere quindi il pagamento delle imposte. Lo Stato si deve occupare di altro. Non crede che già lo sia, per molte, liberamente anche, in maniera però... Guardi, di fronte al tema della prostituzione ci sono due tipologie di persone. Ci sono coloro che lo scelgono liberamente e ci sono invece... le schiave, le persone sia italiane ma soprattutto quelle, le donne che vengono da paesi esteri, spesso si tratta anche di minorenni, certo, e che vengono qui e che vengono obbligati. E questo è un problema di criminalità sul quale tutti siamo d'accordo, certo, voglio dire, da stroncare, certo, il fenomeno. Ma guardi, anche per quelle, le persone che lo scelgono liberamente, se lo Stato dicesse tu svolgi questa professione devi pagarmi le imposte e le tasse, Davvero, io continuo a dire, come mai non lo chiediamo ai drogati e ai ladri? Però perché mette sullo stesso delle prostitute? Ma perché mette sullo stesso incamerare, lo faccia con queste due tipologie. No, ma senatrice Baiodossi, perché mette sullo stesso piano le due? Cioè, voglio dire, chi si prostituisce liberamente, insomma, il ladro compie un reato, voglio dire, il cioè, perché il mette ladro, sullo stesso piano? Il ladro compie un reato e invece la prostituta no, sicuramente, però se si tratta di un problema di carattere economico finanziario per lo Stato, allora io ho citato che queste due tipologie sono di più di quelle delle prostitute esistenti oggi in Italia. Allora, se invece vogliamo tornare a un ragionamento e alla consapevolezza che questo fenomeno esiste, che lo Stato non lo propone assolutamente, io parto da questo concetto: per lo Stato la prostituzione non è un bene sociale, è un male. Se poi una persona sceglie liberamente di farlo, lo può fare perché non commette un reato ed è giusto che non sia riconosciuto come un reato, però non è un modello sociale. Ah, beh, questo è interessante, allora, questa opposizione qua, molto etica, senatore Malan, prima di andare al nostro sindaco di Albenga, cioè la prostituzione è un male e lo Stato dovrebbe riconoscere che è un disvalore, non un valore, dunque un lavoro, anche un valore professionale da tassare. A questa secca critica della senatrice Baiodossi, che replica lei? Ma io intanto rispetto molto questo tipo di critica, perché io condivido i fondamenti etici, però dico anche che le sigarette sono palesemente un male, fanno male alla salute, costano soldi, eppure lo Stato addirittura ne aveva o in qualche modo ne ha il monopolio, le tassa molto più degli altri settori, oppure il gioco d'azzardo, perché chiamiamolo col suo nome, la maggior parte dei giochi che troviamo, non più solo ai casinò, anche questi gestiti dallo Stato, spesso, ma questo per motivi di scarsa capacità di alcuni gestori, addirittura perdendoci, ma questa è un'altra storia, ma tutte le cose che si trovano ormai nelle tabaccherie, nelle sale, nelle varie sale di gioco, è gioco d'azzardo. E lo Stato addirittura li promuove e li gestisce in proprio. Certo, quindi dice, naturalmente questo non vuol dire che lo Stato deve gestire qualunque cosa, perché pur di fare soldi, però questo è un fenomeno che lo Stato stesso, a differenza del furto, di altre attività, ritiene non commendevole, perché lo Stato non è che perché se tassa un settore o se semplicemente non lo proibisce vuol dire che lo ritiene lo considera un bene. No, certo, questo, su questo è chiaro. Io non sono un modello, eppure giustamente uno in cassa paga, perché se una ragazza va a pulire le scale a 6 euro all'ora deve pagare le tasse, se invece va a fare un altro mestiere guadagnando molto di più non deve pagarle. Vorrei andare al sindaco di Albenga, sindaco Roselia Guarnieri, sindaco della Lega. Lei ha chiaramente proposto la riapertura delle case chiuse. Mi sembra che allora la proposta del senatore Malan la trovi d'accordo. Perché? Allora, intanto io condivido tutto quello che ha detto il senatore Malan e condivido anche il paragone che ha fatto l'associazione al gioco d'azzardo e al consumo di sigarette che sono dannose. Ritengo comunque che sia anche un motivo di ordine pubblico ed è per questo che è nata la mia richiesta: diamogli la partita IVA, uguale a dire regolarizziamole, perché non può questa attività essere svolta su strade pubbliche, vicino ad abitazioni, vicino a scuole, vicino ad istituti che vedono il passaggio dei bambini, delle famiglie intere, eccetera. Per cui la mia richiesta è nata da questa, anche per motivo di ordine pubblico. Quindi legalizziamola per renderla legale, però codificata nelle case, maggiormente controllata. Insomma, questo è un problema. Da quanti anni è che ci dibattiamo su questo, la riapertura delle case chiuse? Tra l'altro ieri il ministro Carfagna ha detto irricevibile l'emendamento proposto da Malan e credo anche dalla senatrice Poretti del Partito Democratico, irricevibile. Credo che ci sarà poca strada, ma vedremo, ecco. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, volete sapere tra l'altro la percentuale di chi vota a favore? Perché essendo un plebiscito a favore della proposta di legalizzare, il 93% dei nostri ascoltatori su Radio24.it dice sì, va legalizzata e bisogna far pagare le tasse. E, senatrice Baiodossi, non lo so, io non voglio fare commenti su chi vota, no, per carità. Però capisce che è una cosa che è una di quelle cose che sentita a livello popolare. No, ma guardi, io capisco, aspetti, allora, posta in questo modo, lei l'ha posta correttamente perché ha descritto, però posta in questo modo è come se io le dicessi, vuoi il bene o vuoi il male? È logico che rispondo che voglio il bene, vuoi la sicurezza o vuoi l'insicurezza? Allora, io continuo a ricordare questo. Allora, se vogliamo riaprire le case chiuse, io voglio chiedere a tutte le persone che vivono in una casa, ma voi vorreste vivere vicino, così come non le vogliamo vedere in strada, non le vogliamo vicino al nostro appartamento, ma si figuri se la signora della porta accanto, invece di essere una signora qualsiasi. Ma che ne so, guardi, non so, in Svizzera in Svizzera cosa fanno? Fanno dei, immagino, dei night, dei locali, per esempio. Non so, è chiaro che non è ma che apro lo spazio vicino. Allora, è logico che quello rappresenta un modello che noi non dobbiamo seguire. Allora, dobbiamo individuare tante piccole soluzioni, perché la soluzione al problema non c'è, altrimenti l'avremmo già trovato. Noi dobbiamo trovare tante piccole soluzioni per disincentivare lo sfruttamento del corpo femminile, la vendita del corpo femminile. Io chiedo alla sindaca, che rispetto molto, perché lei deve gestire il suo territorio, deve cercare di creare benessere, però io chiedo, ma come pensa di utilizzare questo corpo femminile, questi soldi che derivano dallo sfruttamento e dallo squallido sfruttamento del corpo femminile? A tutte le persone che dicono di volere le case chiuse, di volere cioè sono soldi sporchi, sono soldi sporchi, sindaco Guarnieri, sarebbero soldi sporchi gli introiti dalla mercificazione del corpo femminile, dice la senatrice Baiodossi. I soldi sono tutti sporchi, probabilmente, non sono certo fonte di igiene. Beh, no, che i soldi frutto i soldi frutto del lavoro, no. Cioè, che non passi il concetto che io voglio sfruttare il corpo. Io prendo ad esempio quello che sta accadendo. Tutto ciò che dice la senatrice, evitato lasciandoglielo fare in strada così come fanno oggi? No, lo sfruttamento c'è e ci sono tutti i danni e i malanni che lei elenca. Allora io mi chiedo, ma dobbiamo continuare a far finta di niente o dobbiamo affrontare il problema per risolverlo nei migliori dei modi? Dei discorsi da me sentiti, da parte della senatrice, non ho sentito una proposta, tante piccole soluzioni che devono disincentivare. Ma quali sono le piccole soluzioni? Noi ad Albenga abbiamo provato col divieto di fermata dei clienti. In 3 mesi abbiamo fatto 75 multe da 300 euro cada uno. Beh, queste non sono soluzioni per evitare. Queste non sono soldi sporchi. No, dico, queste non sono soluzioni per evitare la prostituzione, sono metodi, diciamo, punitivi per chi va, per i clienti, ecco. Sono... Appunto. Però non diversa. Si è disincentivato nulla, per cui il fenomeno è in aumento. In una società che è basata sul consumismo, il fenomeno sarà sempre più in aumento. E allora dobbiamo far maturare il caso, ma controllandolo, governandolo. Sì, essere pragmatici, lei dice. Vogliamo sentire un ascoltatore, Andrea da Roma, ci ha chiamato l'800240024. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? Ascoltate, il primo argomento mi ha anticipato il senatore Malan, nel senso che lo Stato prende i soldi dal gioco d'azzardo e nessuno dice nulla. E quindi però perché non dalla prostituzione? Perché non dalla prostituzione, visto che tra l'altro tutti si lamentano, c'è la crisi, lo Stato non ha una lira e questi soldi dei luoghi comuni. La seconda cosa che volevo dire è, a questo punto, visto che la prostituzione è legale, questi signori del Parlamento la votino una legge e la trasformino in illegale. A quel punto, teoricamente, se lo Stato fosse capace di far rispettare la legge, quindi se fosse capace, per esempio, di cancellare la mafia, eccetera, eccetera, a questo punto la prostituzione sparirebbe. Perché? Perché ciò che è illegale sparisce? No. Certo, se loro fossero, appunto, è una questione di realismo, se loro fossero capaci ogni legge che fanno di farla rispettare. A questo punto, ecco, allora, siccome è impossibile fare una cosa del genere, a quel punto bisogna essere pragmatici. Allora, grazie Andrea. Voglio andare da Matteo, provincia di Verona. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Io volevo dire che soprattutto per quanto concerne la prostituzione di colore, sono tutte delle poverine che sono forzate a rimanere lì. Allora, le cosiddette schiave è un problema gravissimo di criminalità che va stroncato. Qui non stiamo parlando, nessuno mette in discussione che la prostituzione di quelle che sono forzate, le schiave o gli schiavi della prostituzione, nessuno mette in discussione che possa essere mai legalizzato, e neanche la proposta del senatore Malan. La prima condizione è che chi si prostituisce lo faccia liberamente, perché decide di fare questo nella vita. Prosegua Matteo. E poi ci vorrebbero delle zone destinate, perché hai presente, Mari, io mi devo alzare alle 6 della mattina per andare a lavorare e sopra è un via vai di gente. Purtroppo sì, certo, certo. Guardi, io ripeto, io non è che voglio dare l'esempio, ma in Svizzera, chiunque lo sa, ci sono dei locali, non è che io apro la porta di casa e trovo nel vicino di casa che è una casa chiusa, insomma, non credo che nell'ipotesi sarebbe così. Ma senatrice Baiodossi, perché lei ha questo, mi sembra abbia molto un atteggiamento a dire questo è bene, questo è male e lo Stato deve muoversi in questa direzione? No, cioè, no, io non sono una manichea, cioè soprattutto da parlamentare non cerco di vedere, no, però, qual è lei, il bene lei, no, ma la mia non è una critica, lei però ha una posizione da Stato che deve decidere ciò che è bene e ciò che è male, cioè in quella direzione, per esempio la Svizzera, noi come Stato non dobbiamo andare, in nome di che cosa? Lo Stato attraverso le leggi trasmette dei messaggi e dei valori ben chiari, per esempio quando ti dice tu quando svolgi un lavoro devi pagare le imposte e le tasse, è una questione di messaggio valoriale che lo Stato, quando noi diciamo ai giovani tu devi andare a scuola, è un dovere civile per la tua crescita, tu ti devi curare quando sei ammalato, anche chi non vuole noi cerchiamo di convincerlo del bene, allora in questo senso le leggi hanno una funzione anche valoriale. Io personalmente non approverò mai una legge che riconosce la prostituzione, lo faccio come donna, come cittadina e come persona. Sì, perché non lo considera un valore. Io vorrei, ho un minuto, senatore Malan, voglio chiudere con lei. Insomma, lei prosegue per questa strada che già il suo ministro Carfagna ha detto irricevibile? Cos'è stata un po' anche una provocazione, un voler porre un problema in maniera forte? No, guardi, io lo dico, il fatto di averlo proposto nella manovra è la ragione principale, cioè io capisco le motivazioni, anche se evidentemente non le condivido, di chi è contrario, però in questo momento dire no vuol dire no a un miliardo che consentirebbe di fare soldi. Degli interventi che proprio perché i soldi scarseggiano. Cioè lei è super, super pragmatico, lei dice facciamo una questione anche di cassa, di soldi che servono. Esatto, io è chiaro che se la ritenessi una proposta rovinosa ma che rende un miliardo allo Stato non lo farei mai, perché indubbiamente non è che. Però ritengo che abbia dei lati positivi sotto altri aspetti, e in più c'è questo aspetto. Oggi forse bisogna chiedersi poi se andiamo a chiedere in giro ai cittadini, alle categorie, eccetera, eccetera, di tirare fuori loro questo miliardo, forse è una ragione in più per pensarci un pochino di più. Poi il ministro Carfagna si è detto contrario, devo dire che la proposta che abbiamo al Senato in commissione, portata avanti dal ministro, prevede la proibizione della prostituzione all'aperto, e questo è perfettamente compatibile con la mia proposta. Con questa poi cosa. Il ministro Carfagna ha delle argomentazioni diverse che sono simili a quella della senatrice Baiodossi. Vedremo quanta strada farà, io temo non molta, anche se registro, ripeto, il 93% è a favore di questa proposta. Ringrazio il senatore Malan PDL, la senatrice Baiodossi del PD e la sindaca di Albenga Savona della Lega Nord, Rosalia Guarnieri, per essere stati con noi. Sara Spirafico in redazione, Peter Bescapè in regia, vi salutano anche loro. Io ci sono anche alle 18.30 più o meno, la Zanzara questa sera, e se no domattina alle 7.30. Bianco o Nero è tradio24.it.